Senta una cosa, Berlusconi ha appena detto una cosa molto forte, vedrà che insomma farà un po' di poi rumore. Smentita. No, poi smentita in questo caso no, perché era porta a porta, c'è chi vota la sinistra, c'è chi vota i candidati Pisapia, eccetera, è sostanzialmente senza cervello. Adesso la frase esatta gliela ritrovo se vuole. Ricorda un po' quello che disse nel 2006. È un errore secondo lei insistere su questo punto? No, io non credo che abbia detto una frase così, che uno senza cervello, che evidentemente, secondo una valutazione che può fare legittimamente il capo di un partito, credere a certe tesi e credere che sia il bene delle città o dell'Italia seguire i programmi che ha la sinistra sia un errore, mi sembra invece una cosa corretta. No, ma non è detto errore, però. Beh, vabbè, lo puoi esprimere come vuole, ma il concetto è quello, come dice, è da scemi pensare quella cosa, non vuol dire che uno è scemo, no? Non è che ha detto è da scemi, ma quante volte nel linguaggio comune. Allora, tutte le volte che Berlusconi parla si cerca di fare l'analisi dettagliata della sfumatura, sapesse quante, io il giorno le darò la raccolta, la faccio fare al mio ufficio stampa, delle cose che dicono su di me. No, ma quello parole, non c'è dubbio, ma siamo sempre l'ha fatto fare, c'è un libro che dice le parole che hanno rivolto e vuole sapere soprattutto verso chi sono la maggior parte delle offese. Verso chi? Verso il popolo di centrodestra. Due giorni fa, non c'è Bassetti, sta dicendo Bassetti. Plebeo. Da Bassetti, secondo la sinistra è plebeo, che è molto peggio che senza cervello, perché senza cervello è un fatto che Dio può decidere. Plebeo è un atteggiamento sociale, un atteggiamento di allora, questo spirito di presunta superiorità culturale che la sinistra ostenta sempre senza alcuna ragione è molto peggio di qualunque frase che lei può estrapolare. No, ma guardi che quando non mi interessa, parliamo di cose concrete. Scusi un attimo, quando esponenti della sinistra o dei cosiddetti intellettuali di sinistra si rivolgono nel modo in cui lei ha detto nei confronti degli elettori o di Berlusconi, siamo i primi, almeno qui il sottoscritto, ma anche Parenzo, la parte sua condannarla, la parte mia no. Bene, un buon inizio. No, guardi, si sbaglia la russa, guardi. Evidentemente mi conosce poco, guardi, perché... Ma non l'ho mai sentito. Comunque, se ecco, appunto. Da ora sono contento. No, ma non è oggi, guardi, che è una mia specializzazione quella di prendermela con chi attacca Berlusconi con un atteggiamento da presunta superiorità culturale. Sì, sono contento per lei. No, ma ho capito, no, io dico altro. Vorrei che, siccome leggerle esattamente quello che ha detto Berlusconi su De Magistris. Me l'ha già detto. No, io dico De Magistris. Io credo che è più importante lei cosa ha detto il CSM su De Magistris. Sì, vabbè, d'accordo. Letto? Perché non mi legge quello? No, cosa ha detto, scusi un attimo, però perché la magistratura quando lo ha ritenuto va benissimo, quello va da trasferire, perché non era più possibile che rimanesse a fare il magistrato in Calabria. Mi legga quello che lo preferisco. Ma infatti non fa io, nulla, però leggo, non poteva più fare pubblico ministero. Benissimo, però io leggo anche quello che mi pare, se è possibile. Ma io le posso dare un consiglio, legga quello. Io lo leggo, guardi che l'ho letto e penso che De Magistris sia stato un pessimo magistrato. Dunque, se vuole il mio parere su De Magistris, io lo dico subito, è stato un pessimo magistrato, va bene? Così. No, un pessimo magistrato non è niente di grave, ce ne sono tanti. Vabbè, pessimo, che devo dire? Che devo dire? Che è stato un criminale, che devo dire? Censurato. Benissimo. Censurato dal CSM. Però scusi la russa. Quindi per la ma va benissimo. Ma oggi stiamo valutando De Magistris. Aspetta un attimo, David. Aver aggiunto Berlusconi. No, ma non... no, ma guardi, che... scusi un attimo, adesso non voglio insistere su questo, però siccome pare che io sto dicendo che no, Berlusconi se l'è presa con gli elettori di De Magistris, è una cosa un po' diversa. Lasci stare. Ma perché devo lasciare stare? Cioè, se uno dice ma che il bravo, uno che vuole ascoltare, l'hanno ascoltato, avranno capito gli elettori. Sia tranquillo, non hanno bisogno della sua esigenza. Ma non vuole è l'esigenza. Cosa penso io? O vuole sapere cosa penso di quello che dice Berlusconi? Vabbè, lei era già detto. No. Per parlare della campagna elettorale, o cosa penso delle parole di Berlusconi? Però, ministro, se iniziamo così, io stavo semplicemente. La saluto, guardi, la ringrazio. Ma io volevo parlare di elezioni. Ma ne stiamo parlando, ma ne parliamo. Solo la mania anti Berlusconi. Io. Avete un tarlo nella testa. No, ma guardi, ma non è così. Ma guardi che si sbaglia. Si sbaglia. Ma non sto. Ma non sto. Ma scusi un attimo, è roba da matti. Cioè.